Sento nell'aria il profumo di te. Piccoli sogni vissuti con me. Ora lo so, non voglio perderti. Quella dolcezza così senza età. La tua bellezza rivali non ha il cuore mio, vuole soltanto te, per te vivrò, l'amore vincerà, con te. Con te avrò mille giorni di felicità, mille notti di serenità, farò quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Dimmi che tu già lo sai, dimmi che questo non finirà mai, senza di te non voglio esistere, per te vivrò. Andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Non devo dirtelo ormai, già lo sai. Che morirei senza di te.